Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Rieccoci, bentornati alla finestra sul cortile. Forse siete già partiti per le vacanze o avete le valigie in mano. Siamo a fine luglio e l'imperativo, come al solito, è tutti al mare. Ma che mare troveremo? Come sta il mare? In particolare il Mare Nostrum, il Mediterraneo sul quale si affaccia l'Italia. Negli anni scorsi si sono moltiplicati gridi di allarme sullo stato del mare da parte di ambientalisti di organizzazioni internazionali. Gli esperti dell'ONU al forum di Parigi del marzo scorso hanno parlato di un mare martirizzato, di un'immensa discarica nella quale fermentano i conflitti del futuro. È un scenario catastrofico che inquieta chiunque ami il mare e che ci fa sentire oltretutto anche meno sicuri. Ma è proprio così o c'è qualche speranza di salvare questo grande specchio di acqua azzurra che noi tanto amiamo? Di questo tema, dei problemi del Mediterraneo, parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma ci sono anche altri argomenti, sentiamo cosa prevede il sommario di oggi. Inghilterra, occhio agli ingegneri. Secondo uno studio britannico, molti terroristi sarebbero laureati al Politecnico. Germania, spopola il cibo gourmet per cani viziati. Indonesia, povero a bordo. I meno abbienti si offrono come passeggeri per aiutare gli automobilisti a evitare le multe. Francia, gli scienziati si consultano. Il Mediterraneo non è poi così sporco. Spagna, tutti pazzi per la tortiglia. Gli spagnoli la eleggono come il loro piatto preferito. Inghilterra, internet non salva la memoria del presente. Meglio i documenti originali. Studenti del Politecnico, aspiranti ingegneri, state attenti ai vostri compagni, selezionate con cura le vostre frequentazioni, perché tra di loro ci potrebbero essere dei terroristi. La notizia apparentemente sembra un po' strampalata, ma la troviamo su un settimanale molto serio come il New Scientist, un settimanale di cultura scientifica, di informazione scientifica britannico, che pubblica i risultati di una ricerca del professor Diego Gambetta e di Stephen Hertog, due docenti di Cambridge e due sociologi molto accreditati, i quali hanno fatto uno studio sulla carriera scolastica di un universitaria di un gruppo di terroristi, e sono giunti per l'appunto alla conclusione che la laurea in ingegneria è un buon indizio per quantomeno figura molto spesso nel pedigree, nel curriculum dei terroristi islamici. Apparentemente questo risultato di questa ricerca di Gambetta e Hertog appare in contrasto con quanto invece sostengono le polizie segrete, i servizi segreti dei paesi occidentali, perché per esempio in un rapporto pubblicato recentemente dal Guardian nell'agosto del 2008, appunto i servizi segreti britannici erano giunti alla conclusione che non esiste un solo sentiero che porta all'estremismo violento e non è possibile disegnare un profilo tipico del terrorista inglese. La maggior parte dei terroristi in Inghilterra, sostengono appunto gli esperti, sono irriconoscibili dal punto di vista demografico. Lo stesso è successo ai tedeschi, che dopo l'11 settembre hanno cercato di di premunirsi e di fare una specie di screening di tutti i potenziali terroristi che giravano in Germania. Hanno preso addirittura 8 milioni di persone residenti in Germania e di religione religione musulmana provenienti da una delle 26 paesi islamici, e dopodiché li hanno ulteriormente selezionati per arrivare insomma a un nocciolo di 1689 individui che avevano delle caratteristiche ritenute potenzialmente pericolose. Alla fine si è scoperto che nessuno di loro era una reale minaccia. Tutti gli arrestati per terrorismo in Germania attraverso altre investigazioni non erano in questa lista. Invece Gambetta e Hertog hanno studiato così un campione di terroristi islamici, sia residenti nei paesi arabi sia residenti in Occidente, e hanno scoperto che effettivamente quelli diciamo con una educazione superiore in maggioranza appartenevano e avevano fatto ingegneria. La ragione, spiegano i due studiosi, le ragioni possono essere tante. Una è che eventualmente diciamo la loro competenza tecnica può servire per delle iniziative come attentati o per il controllo delle telecomunicazioni, ma può essere un motivo invece più strettamente sociale, cioè il fatto che appartenere a un'elite tecnica in un paese arretrato genera frustrazione e quindi può alimentare dei sentimenti di odio sociale e condurre all'estremismo e al terrorismo. Ma su questo tema abbiamo interpellato un esperto che abbiamo al telefono e che salutiamo, Guido Olimpio del Corriere della Sera. Ecco, benvenuto in trasmissione. Guido Olimpio è un collega che conosciamo da molti anni, quindi ci diamo del tu, ed è un esperto, uno dei massimi esperti di terrorismo internazionale. Tu come valuti questi dati di questa ricerca, Guido? Che do è che io non credo che esista un percorso fisso perché uno diventi terrorista. Ma questo lo dicono anche loro. Loro. Il secondo elemento, ritengo che propendo più per la seconda spiegazione che loro danno, ossia se tu vivi in un paese nordafricano, un paese medio orientale, dove non c'è libertà, dove spesso non c'è lavoro, è chiaro che chi ha un maggiore cultura, ha studiato, magari non trova lavoro o comunque è più impegnato, e quindi è possibile che trovi rifugio nei movimenti estremisti, non soltanto il terrorismo. Il primo passo in genere è si legano a dei movimenti estremisti. Faccio un esempio: i Fratelli Musulmani, certo, che non parlano il terrorismo in Egitto, però hanno una forte corporazione di ingegneri o di dottori. Medico, no? Al-Zawahiri era un medico. È un medico, esatto. Se ricordiamo, qualche anno fa ci fu una cellula smantellata in Inghilterra e coinvolta in alcuni attentati un po' fai da te, ed erano dottori, e lì si disse: ah, ecco la cellula dei dottori. Io ritengo che sia più legato a un fattore sociale. Ecco, infatti c'è un dato, diciamo, che ci fa propendere per questa spiegazione, del fatto che in Arabia, dove viceversa i pozzi petroliferi, lo sviluppo industriale, economico, ha permesso di creare dei posti di lavoro per gli ingegneri, no, lì ci sono meno terroristi che hanno una laurea in ingegneria. Quindi certamente, mi sembra giusto come sottolineatura. È vero, no? Cioè, quindi diciamo c'è anche questo senso dell'arretratezza che un tecnico sente di più e pesa proprio, diciamo, sulla sua coscienza e anche sul suo orgoglio nazionale. Poi pensiamo appunto che cosa vuol dire nascere in un paese dove tutti i prodotti tecnologicamente avanzati vengono dall'Occidente. Certamente è un, come dire, si ha un rapporto di amore e odio. Da una parte si usa la tecnologia, si studia, ci si laurea, al tempo stesso lo si usa, se diventi un terrorista, appunto per comunicare, il grande uso di internet o per studiare formule. Ripeto, il terrorismo oggi è molto fai da te, però al tempo stesso poi c'è una grande campagna di demonizzazione su tutto quello che porta l'Occidente, quindi il carattere sociale è fortissimo. Poi però, se andiamo a vedere i gruppi, vediamo che magari chi è laureato non solo in ingegneria ma in qualsiasi laurea ha un certo livello, e poi però la bassa forza è fatta anche di disperati, di poveracci. Certo. Questo cambia a seconda la manovalanza, diciamo. In Marocco lì, che è un paese molto povero, abbiamo visto che gli attentati terroristici sono stati fatti da persone con bassa cultura, molto poveri. Sì, c'era qualcuno che aveva studiato un po' di più, ma insomma era un terrorismo di basso livello, sia culturale che anche di basso livello tecnologico. Ecco, diciamo che il caso invece di Al-Qaeda, del gruppo storico di Al-Qaeda, degli attentatori dell'11 settembre, invece è proprio quello di una elite sostanzialmente, perché se vogliamo dire, perché Mohammed Atta era laureato in architettura ad Amburgo, quindi insomma non era proprio un poveraccio. No, infatti il caso di Mohammed Atta rafforza il carattere sociale, perché ricordiamoci che Mohammed Atta rimase molto deluso di non trovare lavoro, ebbe quasi uno shock a vivere in Germania con le abitudini occidentali, non riusciva a, come dire, a coordinare il suo io, quello che provava sotto il profilo spirituale, quello che provava sotto come essere un giovane, cosa faccio e quale lavoro farò, e quindi ecco che emerge molto. L'altro molto importante del carattere sociale lo si vede nel reclutamento. Si cerca sempre di reclutare attraverso, diciamo, gli amici, magari i compagni di scuola, i compagni di studi o la famiglia, e quindi di nuovo l'elemento sociale è fondamentale per far andare avanti questi gruppi. Certo, ecco, comunque al di là di tutto, ecco, da questo studio emerge un pregiudizio negativo nei confronti degli ingegneri, dato che io ho un fratello ingegnere, adesso lo guarderò con un po' di sospetto, perché qui dice che anche tra i professori di ingegneria nelle università americane, dice, hanno 7 volte più probabilità di essere di destra, appartenere alla destra religiosa, e quindi piuttosto fanatici, ecco. Io posso testimoniare che mio fratello non è così, e ne conosco, tanti ingegneri che sono delle persone assolutamente moderate. È evidente che quando si fanno poi queste casistiche, questi studi, si va per categorie. Certo. Ma io ripeto, proprio la difficoltà di combattere questa forma di terrorismo è l'assoluta, diciamo, è un terrorismo indefinito, quanto mai spontaneo, inafferrabile, quindi ecco perché è difficile poi fare delle categorie che tanto piacciono. Bene, noi ringraziamo Guido Limpio, gli auguriamo buone vacanze, buona estate, a presto. Grazie a voi. Hasta la tortilla siempre, potrebbe essere il motto degli spagnoli, secondo una notizia che leggiamo sul País. E da Madrid si racconta che una inchiesta condotta dalla Coca-Cola nel paese appunto spagnolo ha scoperto che il piatto preferito dal 45% degli intervistati è la tortilla di patate, e in modo specifico la tortilla di patate con cipolla, insomma un piatto classico della cucina tradizionale spagnola. Seguono nella scala di popolarità dei piatti la paella, i crostacei, il gazpacho, la bistecca e la lasagna. Ma la cosa più interessante è che il 42% degli intervistati sostiene che a fare la tortilla migliore è la mamma. Anche gli spagnoli sono mammoni. E restiamo in tema di cibo e andiamo in Germania per parlare di un cibo un po' particolare, il cibo dei cani. Brigitte Hornau, una giovane imprenditrice tedesca, ha tratto, diciamo, impulso dall'anno di crisi per inventarsi un nuovo business, quello di vendere cibo deluxe per cani viziati. Scontenta che il suo Doberman dovesse nutrirsi solo di quello che passava il convento, anzi il banco animali del supermercato, la trentenne di Monaco si è messa in società con un macellaio e ora produce scatolette pregiate per cani esigenti. Senza che nessuno le abbia concesso finanziamenti, la sua Terra Canis, così si chiama l'azienda, è arrivata a produrre 150.000 lattine in 13 varianti e a raddoppiare il fatturato ogni 12 mesi, previsto per la fine dell'anno intorno ai 2 milioni di euro. Né scrupoli etici né crisi mondiali hanno fermato Brigitte, che ora pianifica di rendere saporite anche le ciotole dei gatti, perché adesso la vita da cani la fanno soprattutto quei banchieri che prima non hanno creduto al suo fiuto. La finestra sul cortile. Qual è lo stato di salute del Mediterraneo? Ne parla un articolo del Figaro Magazine dove si parla soprattutto del responso di un gruppo di oceanografi e di studiosi dei problemi del mare dell'Istituto Paul Ricard. E l'inviato del Figaro Magazine è andato per l'appunto ad Ambier nel Var, dove c'è questa Gare Laban, a bordo della quale salgono questi studiosi per fare un'analisi dello stato del mare. E il responso, almeno così sommario, di questa Patricia Ricard, presidente dell'Istituto Oceanografico Paul Ricard, dice: sì, il Mediterraneo può avere delle debolezze, ma è capace di resistenza. L'importante è che se ne prenda cura. Ma diciamo, in passato noi abbiamo sentito molte grida d'allarme, si parlava così di un mare ormai ridotto ad un'immensa discarica, avvelenato proprio perché è un mare interno, un mare chiuso, avvelenato dall'inquinamento, saccheggiato da una pesca intensiva e non controllata. Ma qui si dice in questo articolo che diciamo qualche cosa sta cambiando, soprattutto per l'intervento di alcuni governi, alcuni paesi rivieraschi, in particolare qui si dice la Francia, la Grecia, la Spagna, l'Algeria e il Libano, che hanno approvato delle leggi per proteggere i litorali. Però il problema è che le sponde del Mediterraneo sono molto, molto affollate. Nell'anno 2000 contavano 143 milioni di abitanti, che diventeranno 147 milioni nel 2025, e attraggono un terzo del turismo mondiale. Purtroppo la maggior parte di questi paesi non hanno degli impianti di depurazione, e la metà delle città intorno al Mediterraneo, città oltre i 100.000 abitanti, non hanno appunto degli impianti di depurazione, per cui il 60% delle acque urbane vengono ributtate in mare senza trattamenti. Di depuratori ne sono stati costruiti molti, soprattutto in Francia, anche in Italia, e questo ha migliorato un po' la situazione. Però da questo articolo si dice, apprendiamo anche che ci sono dei nuovi inquinanti come gli ftalati, che sono degli additivi industriali utilizzati per la fabbricazione delle plastiche, che hanno raggiunto una concentrazione più elevata, senza contare poi i medicinali usati che, buttati a mare, producono degli effetti devastanti sulla fauna marina, perché cambiano il sesso, femminilizzano i maschi o virilizzano le femmine di specie di molluschi, pesci e crostacei, creando insomma delle situazioni drammatiche dal punto di vista riproduttivo. Ecco, ma intanto ci ha raggiunto al telefono un ospite. Diamo il benvenuto all'onorevole Ermete Realacci, ambientalista, presidente onorario di Legambiente e parlamentare del Partito Democratico. Realacci, lei come valuta questi dati che emergono da questa indagine francese dell'Istituto Paul Ricard? Dovrei vedere l'indagine in maniera più approfondita, ma sicuramente è necessario avere una spinta ottimistica. Se noi pensassimo che tutto è perduto, non varrebbe neanche la pena di impegnarsi. In questo momento, per esempio, è in corso una importante, storica campagna della Legambiente, la Coletta Verde, che è la più importante campagna di rilevamento dell'inquinamento marino al mondo, gestita da un'associazione ambientalista, e nel corso di questi anni si sono segnati anche dei successi. interessi. Io ricordo che molti anni fa in Italia, per esempio, c'erano 4 imprese che scaricavano direttamente a mare i loro rifiuti e anche, come si diceva anche in questo rapporto, mi pare, sono aumentati i depuratori, c'è più controllo, anche se molti depuratori spesso funzionano male nel nostro paese. Quindi si può migliorare, per dirla con Obama, possiamo farcela. Insomma, ecco, sì. Ecco, però qui si dice, quando si parla delle leggi di protezione dei litorali, si enumerano vari paesi, Francia, Grecia, Spagna, Algeria, Libano, e non si nomina l'Italia. È un'omissione voluta? È un'omissione, perché in Italia le leggi ci sono anche, il problema è farle applicare. Per capirci, noi abbiamo avuto leggi che tutelavano le coste, abbiamo delle norme urbanistiche, ovviamente diciamo, c'è sempre in agguato l'illegalità, l'ecomafia, l'abusivismo, che spesso viene tollerato, a volte addirittura premiato. Quindi la battaglia contro gli ecomostri è fondamentale, diciamo, per difendere la bellezza, diciamo, del nostro paese. E poi è importante, una cosa che nel rapporto mi pare si dicesse, il fatto che ci vuole un coordinamento a livello internazionale delle misure. Questo vale per la pesca, vale per esempio per uno degli inquinamenti più insidiosi, che è il petrolio, sia quello rilasciato di routine, sia quello dovuto al lavaggio delle cisterne, perché in questo caso l'Italia, per esempio, ha norme più rigorose di altri paesi, ma il mare è uno solo, quindi se tutti non applicano delle norme serie, poi ne risente un bene che è un bene di tutti. Da questo punto di vista c'è molto da fare. No, infatti, ecco qui, proprio sul traffico delle petroliere, il rapporto dice che il 30% del traffico marittimo mondiale e il 28% di trasporti di idrocarburi transitano nel Mediterraneo. Negli ultimi 15 anni l'inquinamento da idrocarburi è stato ridotto a un ventesimo, grazie alle nuove regolamentazioni. Quindi, insomma, un certo sforzo si è fatto, nonostante tutte le... Si è fatto, anche se, ripeto, il controllo rimane spesso non omogeneo. L'Italia da questo punto di vista è più seria anche di altri paesi, anche se rimangono delle falle. Voglio fare un esempio concreto. Diversi anni fa ci furono 2 incidenti, diciamo, simili per quanto riguarda 2 petroliere, uno al largo della Liguria, la Haven, e un altro al largo dell'Alaska, la Exxon Valdez. Lasciarono in mare una quantità simile di petrolio. Bene, nel caso della Haven, alla fine di tutti i processi, gli armatori furono chiamati a versare un rimborso dell'ordine, per darla in euro, di circa 60 milioni di euro. Nel caso della Exxon Valdez, alla fine di tutti i processi, gli armatori furono chiamati a versare un rimborso di 1.000 milioni di euro, no? Certo. Quindi è chiaro che gli Stati Uniti in questo caso hanno delle norme che sono molto più efficaci di quello che ha l'Unione Europea. Molto più severe. Ecco, ma lei è un esponente dell'opposizione, quindi una domanda è d'obbligo. Come si sta comportando questo governo sul fronte proprio della tutela dell'ambiente marino? Ma guardi, sull'ambiente marino non ci sono state grandi differenze dal governo precedente. Abbiamo sventato un rischio forte, perché la prima versione del provvedimento che Berlusconi proponeva sull'edilizia era una specie di condono preventivo. Io ricordo che nei 2 precedenti governi Berlusconi furono fatti 2 enormi regali all'ecomafia, cioè 2 sanatorie dell'abusismo edilizio, e questo è veleno per la bellezza del nostro paese. Ecco, forse a questo alludeva il rapporto francese quando parlava dell'inesistenza in Italia di norme. Quindi in questo caso avete sventato, insomma, questa cosa. In questo caso, diciamo, pericolo scampato. Dopodiché, ecco, ovviamente si può fare di più, e bisogna anche dire che la scommessa dell'ambiente, della green economy in tutti i campi, in questo caso ha a che vedere anche col turismo, oltre che con l'attività della pesca e con altre attività connesse al mare. Io ricordo che l'Italia è leader nel mondo degli yacht di lusso, e facciamo anche degli yacht molto avanzati tecnologicamente sul fronte ambientale. Ecco, questa scommessa è una di quelle che ci può consentire anche di uscire dalla crisi, non c'è dubbio. Noi ringraziamo Ermete Realacci, buona estate e auguri. Altrettanto. Si chiamano Fantini, ma non hanno niente a che vedere con le corse di cavalli. Sono un nuovo tipo, una nuova categoria sociale che si sta affermando a Giacarta e svolgono un ruolo abbastanza curioso, particolare, che è quello di riempire le macchine, di fare i passeggeri addizionali nelle zone a traffico limitato, perché a Giacarta le autorità, proprio per limitare l'inquinamento, hanno stabilito che in alcune zone della città si può entrare soltanto se ci sono almeno tre passeggeri a bordo. E una di queste fantine si chiama Tia, ha 20 anni, e il quotidiano kuwaitiano Al-Watan l'ha intervistata. Lei in particolare è molto competitiva in questo mestiere, perché porta anche il suo bambino, la sua bambina di 4 anni, e per questo servizio viene pagata 10.000 rupie, praticamente un dollaro ogni corsa. E come le anime morte di Gogol, insomma, servono a fare numero, a fingere che l'auto sia più affollata del necessario. Se non fosse un sintomo di qualcosa di molto serio come la miseria, farebbe pensare a un film di Totò. E andiamo in Inghilterra, sulle pagine del Times Literary Supplement. Peter Green recensisce l'ultimo saggio di Anthony Grafton, Worlds Made by Words, Mondi fatti di parole, che sostanzialmente ricostruisce un po' la parabola della parola scritta, insomma, dalla rivoluzione di Gutenberg fino al sapere digitalizzato. E la conclusione che raggiunge Grafton è che mentre i documenti del recente passato diventano sempre più accessibili online, per quelli invece risalenti a secoli fa dovremo sempre e ancora basarci sugli archivi cartacei, perché il trasferimento di questi documenti anche nelle super tecnologiche biblioteche americane o inglesi dalla carta al web è ancora in una fase molto primordiale. E Grafton dice è necessario avere un rapporto con questi documenti, e racconta un singolare aneddoto, che un ricercatore che voleva fare la storia del colera ha incominciato ad annusare delle lettere di 2 secoli e mezzo fa in un archivio per vedere quali erano state impregnate di aceto nella speranza di disinfettarle. In questo modo ha ricostruito l'epidemia. Questo ovviamente non sarebbe possibile con un computer. E per oggi è tutto, si richiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Giorgio Mattè in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.